медицинские услуги. Курьерская доставка. Чулио. Ascoltare. No, che c'ero io in ascolto, ho detto. Oh signor. Oh, io. Vabbè, lascia lì. E te ripeti. Io stavo cantando fino adesso, ho finito adesso. E io stavo studiando fino a poco fa. Anche stamattina. Ma lo sai quanto mi fa dimenticare il dolore quando ho canto? Tu non ci credi, sembra che non ci abbia nulla. Perché non pensi al dolore, capitola, e magari così quando canti non ci pensi. Mi sono fatto due o tre duetti e poi ho smesso, aspetta. Ma stavi qua che ti ho mandato un duetto che ho fatto. Arrivi tu. Già, mi è arrivata una cosa, cos'è? Perché sto uscendo con questo shh? Ti ho detto un duetto che ho fatto, la canzone. Ehi, ho capito. E come mai sei uscito poco fa con questo shh? Questo qui. C'è qualche cosa altro acceso? Il ricevitore ci aveva acceso, stava facendo il QRM. L'hai ascoltata? No, non l'ho ascoltato. E ascolta. Se parlo con te non posso ascoltare quello, non dopo me l'ascolto. Io non ti aggiuntavo. Come te ascolti, Natali, tranquillo. Oh, yeah. Adesso vedi, dolore mi stanno tornando, ma l'anno. E oggi è anche il mio compleanno, e quindi sarei dovuto stare meglio, ma oggi ho fatto un peccato di gola, allora, mi sono mangiato due pasti. Ah, monellaccio, io non ne ho mangiato. Ma era il mio compleanno, c'era Marco, c'era Elena e abbiamo festeggiato. E cosa vuoi ti portare nei due bagni? Maranno, è buguata, tu pensa che anche se mi mangio una mela in più, dico, perché ne devo mangiare tre al giorno, mi ha detto, se ne mangio una in più ma te all'impicco. Ieri notte avevo sempre questa sete, allora ho preso e adesso mi mangio una mela, ci avevo 132 prima di andare a letto, mi ho mangiato la mela, stamattina mi sono alzato 220. Non ho mangiato altro, capito? Ho mangiato il latte, ma prima di mangiare il latte me la sono misurata. E ho capito. E è una cosa allucinante, guarda. E vabbè, comunque già posso recuperare, dai. Già recupero domani, domenica, non mangio pane, non mangio pasta, lo vedi dove ti recupero. Te credo. E poi non ho mangiato pasta zuccherata, ho mangiato un cannoncino e l'altro era un bignè, era però quello di quelli con la cappa sopra. Io ho tolto la cappa, anche perché non mi è mai piaciuta la cappa, la verità. Io li mangio senza cappa e bignè. Sì, infatti, sì, non ti piace meglio neanche, tanto è tutto zucchero, chissome. E appunto perciò, lo toglievo sempre, però ragion per cui l'ho tolto. Quindi non è che abbia mangiato chissà che cosa, era un bignè. Aspetta, quel proporlello le fa veramente buone le paste, Natali. Belle, piene di crema, proprio ampros. sono blu più alti. E i mezzi maturi, i pazzi, non so se le faccio ancora così grandi, però le faceva belle grandi. Le fa grandi e piene di crema, proprio piene, anche con la vaniglia, bignì. Le ha fatti belli pieni, proprio infatti anche lei ha detto, caspita quanta crema che mettono, buone. Lo so, ci lavorava Lorenzo, un mio amico, ci lavorava lì. E che sono nascosti, perché sennò sono bravi, sono buone le pasta. Ho mangiato queste frittelle che ti rimanava la crema dai lati della bocca, da quanta c'era. E i riparti di manni, e beh, di bieni, io lo so, ma da tanto, da quando c'era lui, Rotollella. Ci lavorava Lorenzo lì. Infatti una disso che entrate la giù fendi dolcini, ravvendi. A gettatini ubiosa che trova chi faceva un dolcino e si firmava. A passo di sindacato andava. Cazzo si vede a me si assucciava. Una volta è giunto quando ero vendere i cornetti, no? Per indomani. E così li mettevo a lievitare e come entravo erano pronti per infornare, erano già lievitati, no? Si è succiato come si mi avessi durava niente. E poi già lo so, io te lo ricordi quando avevo avuto l'incidente che venivo presto in pasticceria, che vedevo tutta la lavorazione, anche a tuo fratello lavorando, facendo cornetti e cose. E non te lo ricordi che non riuscivo a dormire la notte, venivo. Quindi già lo so, non è che non lo so, a me non mi si vede tenuta di nuovo, già mi conosco la pura. Sì, ma Lorenzo si è assucciato, piano, Natali Mudo, cazzo, se non vuoi fare i ritmi, più ne vai e più volo, principali. E noi che via Tuccio, a chi io travagliavo come in tondannata, a chi ero io, principali. Vabbè, era gestione familiare la pasticceria tua. Infatti chi due era dipendente era. Era grasso, mamma mia. Lorenzo, troppo dogui. Però fazia un dolcino e si rifusava. Cazzo, andando a fare una deglia ne avevo fatto dei sedigli, io gli dissi. Vabbè, quella pasticceria me l'aveva consigliata Luca Manicomio. Dalla volta che ho comprato le paste veramente buone, solo che oggi i dolcini non li ho trovato perché sono andato tardi, capito? Ho fatto la spesa e poi sono andato lì e ero con Marco, è venuto Marco a aiutarmi e poi sono passato lì a prendere le paste e mi ha detto lì caspita il signore è venuto tardi, c'è poca scelta oggi e vabbè, quello che c'è, volevo prendere le pastine quelle piccole, magari se andavo come si chiama, dava lui tu quello che c'è pagoda, li avrei trovati, ma era tardi già, non facevo. In via Giovanni Pascoli li trovavi, e io li pigliavo sempre lì, quando andavo da Luciano al Mocador, la domenica, no, prendevo un po' di pasticcini e li portavo qua, addirittura li prendevo anche per quella del tabacchino, e li portavo. Lì Murito sempre, è uno dei fratelli lo stesso, che lui è morto da vino. Lo so, lì, in via Giovanni Pascoli, mi proprio a fianco al Mocador rimane il negozio di vendita. Lì ci sono i pasticcini sempre. Prima era via Nunzio Cervi, non so se ci sia ancora. Lo fai lì a lavorare a prendere le paste prima, quando era a casa di mamma mi mandava lì a prendere. Lì c'è il laboratorio, no? Però deve essere che lì non vendono più e vendono nel negozio di via Giovanni Pascoli, che è a fianco al Mocador. Ho capito, deve essere che veniva male. Qui era tutto quanto all'aperto, lì si vedeva tutto quello che facevano, eccetera, era un po' così. Come laboratorio va bene, ma per la vendita in effetti hanno fatto bene che hanno aperto lì. E infatti il negozio di vendita ci vuole, per forza. Lì ci sono le signorine, almeno non intralciano il lavoro degli operai, e quindi quando c'è loro vendono solo lì nel negozio, gliele portano dal laboratorio. Un medivus è andato principale a Fusciavini, laggiù vicino un medivus io, perché io mi fermavo a prendermi il caffè da coso, da Moccadoro, che c'era Luciano, sì, sempre lì, mi facevo due chiacchiere, poi andavo, quando era ora di rientrare, mi prendevo i pasticcini e me ne tornavo a casa. Ma adesso non l'hai più vista Luciano questo? A mezzo mio non è più scende, è per quello che non ci sono più andato. Poi mi do a cambiare la macchina, gli sue. Ma affanguarla. Il nipote mi ha detto che ha i piedi gonfi. Sta andando il nipote a aiutarlo e cose, capito? Il nipote lo sai chi è? È quello, il padrone di quello che ha morsicato a Tyson. Ho capito. Infatti è per quello io non l'ho più visto la Moccadoro. Lui a me mi viene male andare a piedi, perché mi fa male la gamba, quando arrivo lì sono morto. E non è paghisso. Mi do cambiare la macchina per andare in Chivi. Non vi so come andare, da chi non ha giù più via Luciano, ha giù cosa va andare a fare. Il caffè me lo porto in casa. Basta. E da lì sono sempre chiuso in prigione, non. La cosa lì c'è una prigione, non so come usci dal lupo. Sì, fatto il guidare io, sarei passato a pigliarti, ci avevo fatto un giro, ma che cosa vuoi, non posso guidare. Stamattina mi l'ho presa, non riesco manco a girare il piede bene per guidare come si deve, dai. Devo guidare con la punta del piede, l'acceleratore e il freno, e non è che sia, che non ce la faccio alzare molto la gamba, devo stare attento. Sì, Chi è che ha gridato? Avanti. Tu Cristo, tu sì, non rispondi, no. Avanti, dov'è che stai ascoltando? Sta lì. No, hanno suonato alla porta, era mia moglie. Falla regaleggiare. Ve lo dico, i bigliacci di Giavi, invece me ne va da sa, dai nobili, da, già mi tronca la schiena questa sedia. Adesso non vedo l'ora di pigliarmi il tavolo nuovo e mi prendo una di quelle sedie girevoli. Perché qua non ci sta e mi devo cambiare il tavolo per forza, che tondo vicchio. Natalia, ho visto una poltrona chi dà, cazzo, non ti puoi regalare. Menti? La poltrona che c'è in campagna, non te la puoi portare, quella che ti ho dato io. No, che si è rovinata. Me la devo comprare nuova, quella sì che era bella. Te lo ricordi quando l'avevo riparata, cazzo, era un bijou. E ne mancava i due bulloni, due gattati, e lì mi girano a fare subito, sono ricchi loro. Sì, ma lo sai. Tiago ti dà i saluti. Ma lo sai quanto era comoda quella poltrona? Questa? Gianni, Gianni. Che bella, che bella. Stavo dicendo. Come è passato il gabbo, cosa devo dire? Quella poltrona era un bel comoda, solo che si è rovinata, tutta la pelle si è rovinata. Sono salito, l'ho vista, me ne so fare a derivarsi, me la devo comprare nuova. Mi compro una di quelle per gaming che dice che sono comode quelle lì. Ma guarda che la mondo conveniente, io l'ho presa lì da Marco, l'ho presa lì, è molto bella quella di Marco, tutta quanta con i bordi ripieni eccetera, come quella che si usa adesso per stare al computer, ce l'ha presa lì. Perché ce le ha questo mondo convenienza già? Cosa? Ce le ha mondo convenienza queste serie? Marco l'ha ordinata e poi l'ha arrivata, quando è arrivata l'hanno chiamato e siamo andati a prendercela. Ah, ok. E quanto l'ha pagata? Molto? Guarda, non me lo ricordo sinceramente, Natalia. L'ho comprata io a Marco, ma non mi ricordo quanto l'ho pagata. È già da un po', dai, che se l'ha presa. Perché lui aveva questa fissazione di stare in live, fare live e cose. E quindi gliel'ho presa per questo. Sì, le vendono anche su internet, sì. Me la faccio arrivare da lì la sedia, però prima mi devo comprare il tavolo. Che ha pagato? Ma come lo vuoi questo tavolo? Sì, quadrato, piccolo, mio, un tavolo che ci sia qua. Era molto conveniente, l'ho proprio guardare, lì costa poco la nostra. E bisogna che ci faccia un salto. Mi devo decidere e andare a vedere. Non saranno di legno di quello massiccio e cosa, però la paghi poco, poi te lo puoi ripristinare ogni tanto, come fanno quelli che abitano lì vicino a casa. Lo prendiamo da convenienza, quando si faccia le di giamba, le c'è sempre i mobili nuovi. E io ho capito. E non mi saprai, fasciano. Ma se non lo bracchi male non si faccia una cosa, non è diretta. Sì, infatti. Adesso mi compro il tavolo e poi mi faccio arrivare una di queste. Se c'è lì me la compro lì. Se no me la ordino da internet e mi arriva da internet. Beh sì, infatti. È solo che queste cose è meglio che tu le provi, le stisciri, le vedi come sono, se stai comodo o meno. Se ce le hanno in esposizione ti mi burbusa. E beh, se ce le hanno in esposizione lì me la compro lì, non sto a ordinarmela da internet, no. Certo che quella che ci avevo, quella era un peccato, era quella serie. Eccola, era una poltrona arroccata, non era una serie qualunque. Lo so. Quella era in pelle di schiavo negro. Poltrona di avvocato, mi ero presa dallo studio. Come si rompe ce la buttano, mica vanno ad aggiustarla. Invece io gli butto dei bulloni a conta. Ma infatti gli mancavano dei bulloni, non è che forse perché ha visto che si muoveva l'ha comprata nuova, era tutta in pelle quella. Ma la pelle si rovina, anche il mio divano si è rovinato in pelle. E a me si è rovinata perché era messa lì, all'umido e cose, no? Quando ce l'avevo io era nuova quella sedia. Vabbè, faremo così. La cosa invecchia, la poco di va, invecchiamo noi la testa. Sì, e noi invece la candria. Ma quella si è proprio rovinata la pelle, non è una roba presentabile. Bisognerebbe farla rifare, ma di sulla piacere è vero che non c'è fino. Già non conviene, no, Natale di Milovedina. Io per fare il cielo della macchina mi pare che ho speso 400 euro, una cosa del genere, e ho fatto tutto il cielo che mi stava scendendo da quello di Viale Umberto, come si chiama, ma adesso non mi viene come si chiama, vabbè, comunque questa pezzere che c'è su Viale Umberto su, e l'ho fatta fare a lui, ma me l'ha fatta perfetta come dalla fabbrica, uguale. E chi c'era bravo, che faceva anche i teloni per il camion, quello lì. Marella. E invece di tutti i nocchi, l'ha giocato qua e mi ha fatto un lavoro del cavolo. No, Marella è bravo, è caro ma è bravo. L'unica cosa che ha combinato è praticamente la luce che c'era al montante dietro per accendere, la luce di cortesia. Quella lì gli ha fatto cadere la lampadina dentro, il comportalampada quando lo stava smontando, e l'elettronico ha detto che lui non se la prendeva di responsabilità di stare a spostare, a fare, no, non le faceva. Quindi non si accendeva la luce di dietro. Io capisco. E vabbè, comunque i difetti dell'operatore sono qui, il cielo che non scende e la carrozzeria che è tutto trasparente. Allora come ti macchini so prendi? E te credo. Tu pensa che la mia sta ancora circolando, te li mangi? La Opel, ma queste, quelle vecchie, quelle che hanno fatto nuove, hanno i motori diversi, tutto diverso, e dici che non esibini a niente, non sono come quella che c'avevi tu. No, adesso non ci sono più motori General Motors come ce l'avevo io. Infatti il mio meccanico mi ha detto, quando volevo comprare la macchina, ha detto, che macchina mi conosci? Dico, guarda, prendile tutto tranne la Opel, perché sta mettendo motori Isuzu, tutti i motori strani che si imbalano Isuzu. E infatti anch'io l'avevo sentito questa storia qui. Quando vai pieno di motori General Motors era una cosa, ma è un'altra. è vero, sì. Anche il meccanico mi ha detto prendere tutte tranne che quella lì, perché ha detto è di Fiat cosa mi consigli, e lui mi ha detto guarda, la tipo che hanno fatto è bellissima, è veloce, l'ho provata, è una bella macchina, però vedi tu da quello che puoi spendere tu, bisogna vedere. Sì, infatti. Dice, è bella che stai vendendo. Sì, bella sì. Poi col fatto che va a gas, io so vabbè che il gas è aumentato, ma non è arrivato manco a un euro. La benzina è arrivata quasi a 2 euro. E a gas va bene, a gas cammina, fino a 200 sono arrivato a gas. Sì, perché è nata così quella lì. L'impianto non è quello di quelli vecchi, sono quelli evoluti che hanno fatto adesso. Ve lo credo che non noti la differenza. A me mi ha detto il venditore che cammina più a gas che a benzina quella macchina. Perché è nata così quella macchina. Dammi il saldo. Ma niente, sì. È giunta quella bressa di Bami Magnà. È giunta. Beh, Magnà, sta a mangiare tranquillo, la sta lì. Sto più tranquillo io, via. Non mangiare molto, mi raccomando. Già so che vieni dov'è. Cazzo, in prigioni e senza Magnà. Allora che prigioni ti devi andare dopo? Ma stava mi portare il chiaro, non ci fa un vigile mi portare il chiaro, ma qualche cosa in più mangia raggio. Ma rotta lì. Tu non puoi mangiare di più, devi mangiare così, per poco di fa. E non devi dire che sono diabetico. Così se arregano i dolci mi mangio un buon dolci. Ma cos'è? Come c'è stato state da stecche? No, già sto io a stecchetto, non c'è bisogno che mi metta lì. Io mangio così presto, per non stare a aspettare molto, perché non mi la posso più a agguantare come ti agguantavo prima, scidato. A chi mangio di fare l'insulina della notte. E anche io me la faccio quella della notte, ma mangio un bacio, non me la fatti nulla. Io dopo che mangio mi faccio, prima di mangiare mi faccio l'insulina, poi mangio. No, io me la faccio 2 ore dopo l'insulina quella lenta della notte, perché faccio solo quella. Durante il giorno prendo una pastiglia a colazione e basta. E quanto unità ne fai di quella? Tanto. Aspetta, guarda che sta paiendo questo pane, che devi dare un brico. Ma che quando si mangia tutto, gli dai un pezzo di wurstel, gli dai. E viene a chiedertelo lui, perché è abituato. Mala, beh, tu. Il premio. Un premio, così quando va giù solo a fare la pipì, gli do un pezzo di wurstel e lui è puro e sano. Io non ho detto più mangiare da quando ho visto che me li fanno i wurstel. No, prima me li facevo con le cipolle, mi mettevo il ketchup, ma poi sono buone. E a lui glielo do come premio, un pezzettino, mi. Che ragazzi. Però rubritendi Marasuti, come finisce di mangiare si bosa in chimi i wurstel. Cuzzinoso. Cosa ci mi dimenticheggia, eh? Oramai è dato l'abitudine, qui che venivo la due volte. Sei mi figlio una pastiglia. Che c***o, avanti io. Attento mio hermano, se va a scusare l'isola della Sardegna, adelante. Sardegna Italia. Non lo sento più. E un passaggio di propagazione c'è stato, da lui a Basciano. Sì, con le propagazioni veloci, fanno e vengono. Non so cosa farmi a cena, roba leggera devo mangiare. Mi vuole mangiare fagioli, cipolle, tonno e maionese. Roba leggera, cosa vuoi mangiare di zero? Io la mozzarella mangio, basta, non devo mangiare pesante, capito? Perché adesso mi devo fare un po' di preparazione, perché oggi ho mangiato le paste, quindi devo stare un po' tranquillo. Non devo mangiare frutta, perché l'ho già mangiata, quindi non le devo mangiare. E insomma, vi devo regolare, dai. Ho capito, Ramadan. Eia, cosa c'è, eia? Italia, Nord e Sardegna chiama. Ti sento a parlare e chiamano qua. Infatti, quelli sta prendendo la propagazione. E ma tanto poi sono tutti americani, inglesi, E tanto io non ci vado più lì perché no, non ce li ho quei canali. Perché ho 40 canali solo e buh. Già mi piaceva farmi gli ex, ma non ho i canali e cosa vuoi fare? Vabbè, ma sono qua su 10, sono, non sono in altri canali. E qua sono in AM, ma a me mi piace in banda laterale. Invece la banda laterale manco la uso, non ci vado nemmeno, non mi piace. Perché la voce è troppo gigiata, non mi piace. Non è chiara in banda laterale, se non è che usi apparecchi sofisticati, tipo quelli radioamatoriali, dai. Infatti, basta sintonizzarlo bene, lo senti come in AM, in banda laterale. No, non ce la fai mai a sentirlo bene bene. Sì, quando lo centri è meglio, ma non bene come in AM. Ma a me piace più l'SSB. E molta gente va a fare gli exi. E l'altro giorno stava chiamando, chiedo arrugginito. Stava chiamando e io gli ho detto non ti sente, chi sei? E gli ho detto chi ero. E dove era? In banda laterale era. E lui va sempre lì a fare gli ex. Lo so, è appassionato. E anche io ero appassionato, ma va, me ne passenti la gana. Me ne passenti. Già ascolto in banda laterale le bande radioamatoriali, mi sta ascoltando però gli italiani più che gli altri, perché si fanno le chiacchierate come possiamo fare noi. E a 7100, 7150, io l'hanno sentito io ascoltare. Si mettono lì e si fanno il salotto, là, diciamo così. Ecco. Avanti, Roberto, buonasera. Buonasera Gianni, buonasera Carina. Oggi è il tuo compleanno, ieri era già. Oggi. Auguroni allora, non mi ricordavo, insomma il tempo molte volte passa, no? Non ti rendi conto. Quanti ne hai fatto già? 6-3. Va bene, dai. Hai superato il 60, dai. Tu ci sei arrivato, io ci dovrò arrivare se Dio vorrà. Ok, e torta, cosa ci hai fatto? Torta. Cappa. No, abbiamo mangiato pasta e cose così. Diciamo che io ne ho mangiate solo due perché non posso mangiarle di più. Vabbè, un assaggino tanto per festeggiare. Vai Natalia. Ciao Robè, buonasera. Quando ho fatto ascolto c'è qualche donato oltre a voi? Oggi non hanno avuto l'occasione di entrare nessuno, diciamo così. Ho sentito solo a Gianni e l'ho risposto. Sì, già c'era qualcuno là e poi si è riavvicinato Riccardino, l'ho telefonato, l'ho convinto. Adesso speriamo che riprenda la voglia anche lui. C'era Eugenio, c'era Mario da Porto Torres, quando stavo chiudendo ho sentito Antonino, poi chi c'era? Muros, diciamo qualcuno si è avvicinato ieri, dai. Eravate Gianni. E oggi è comprato il Riccardino? Il comprato Riccardino era lunedì, doveva essere. Ah, capo, io li ho fatti oggi, vabbè, già li accetterà lo stesso. Io ho visto che li avevo fatti tu, li ho fatti anche. Sì, vabbè, dai. Importante, diciamo, falli, dai, poi anche se sono in ritardo sono sempre auguri ben accetti, dai, almeno da parte mia. Cioè, se te li fanno in ritardo vuol dire che qualcuno ci ha pensato. Brutto, perché se non ne ricevi da nessuno vuol dire che non ti becca nessuno, dai. Natalia, a te. No, io ho la pagina piena di auguri, dico la verità. Anche Antonello Petretto mi ha fatto gli auguri, mi ha fatto anche piacere. E Antonello era in officina stamattina, è venuto. Sì, toia. E sono un falso che non lo vedo Antonello. Ho sempre deciso, Antonello non è vecchio, ma a me forse ha un po' i capelli un pochettino più bianchi, ma tu lo vedi 10 anni fa o adesso è sempre preciso. Sempre in linea, no? Come? Sempre in linea. Sì, no, lui non lo vede mai a pesare, a me un po' di pancia ce l'ho, più o meno anche dall'età, non faccio attività fisica, ne faccio quasi niente. Però lui lo vede sempre con la corporatura di 20 anni fa, sempre così, longilineo, né grasso né magro. Italia ci tiene bene Antonello, sì. Poi fa anche palestra, quindi anche questo. Non lo so se fa palestra, sinceramente. Sì, già la faceva, non lo so se la sta facendo ancora, però ce la faceva. Sì, sì, prima sì, ma adesso ti abbia ben poco tempo, dai. Poi quando diventi un pochettino più grande e c'hai poco tempo, sei sempre pieno di cose da fare, dici lo faccio domani e invece non fai nulla. E ti lascia andare, così è. No, a me già piace sempre camminare, cosa, adesso vanno perché sono così, se no io prendo il cane e mi faccio grosse passeggiate. E io sono sempre qui in officina, già mi uovo, però sto appesantendomi tutto il grasso accumulato nella pancia, per dire, non ho più come qualche anno fa, magari un po' che facevo anche attività fisica, facevo qualcosa, ma non sono occupato di nulla, non ho tempo di niente, arrivo molte volte a casa e sono talmente stanco che mi devo coricare perché sono assonnato, dormo male la notte, per cui no, non fa, mangio di, come si chiama, mangio e mi curico anche che dare il tempo di digerire molte volte ed è sbagliato, no? Non va bene. Chi si tiene bene da Tarino, che è un figurino, l'ha chiamato coso, come si chiama, quelli che fanno le modelle. E allora sono ingrassato attorno da Di Gridi, quando era malato era un figurino. E tu pensi da Tarino? So che dura da ingrassare. Come ero prima sono diventato. Un maialetto, così. Cosa? Meglio, vuol dire che ti sei ripreso. Infatti, sono arrivato a 52 kg quando era malato. Uno scheletro, Natali, finché uno mangia vuol dire che sta bene. Il problema è quando uno non ha appetito. Lo so. Purtroppo posso mangiare poco, ma vabbè. Prendiamola come viene, dai. Così bene. Ma la Wheeler esiste sempre, sì. Ho capito. Ho detto, la Wheeler sempre esiste. E certo di sì. Ah, vabbè, io pensavo che dopo che non c'era più tuo padre, non lo so, se l'avete presa voi. Sì, già da qualche anno. Lui è il fondatore, dal 49 esiste la Wheeler, ricordiamoci, si dice Wheeler, non Wheeler. Molta gente dice Wheeler, però si pronuncia Wheeler. La storia è nata dalla marca delle biciclette Wheeler e da lì è nato tutto. Dal 49 mio padre è il fondatore e poi qualcuno poi l'ha seguito e noi abbiamo proseguito, ma non da adesso, da tanti anni. Poi l'ultimo periodo che non stava bene lui non partecipava più, però era sempre, chiedeva, faceva, cioè si informava sempre di tutto. Ok, e chi c'è che tocca? Lasciamo un secondino di bianco, se no riprende Natalino. Vai Natalino. Hai già messo qualcosa io della Wheeler e mio fratello anche. Vero Robè? Sì, il tuo fratello ci ha giocato anche a buoni livelli, dai, è un bel ricordo, ci abbiamo. Un buon giocatore, niente da dire. Non ha giù più visto da minimo, non dico 50, ma qualche anno di più, minimo 55 anni che non lo vedo, a tuo fratello. Forse una volta di sfuggita, forse in officina con te era venuto, ma tanti anni fa. E basta. Abbiamo festeggiato 2 anni fa i 70 anni, adesso se Dio vuole facciamo il 75. Sabato scorso avevamo fatto il memorial di mio padre e il primo, ci sono le finali, il primo di novembre. Io venivo sempre a vedere mio fratello. E tu già, non hai mai fatto calcio? No, calcio a livello di gioco sì, ma non proprio in squadra, roba del genere, in porta, ero in porta io. Era maduro, ti mettevano sempre più alto in porta. Ed era anche bambino in porta, dai. Però sempre a livello di gioco, dai, le squadre fatte nel quartiere, capito? La nostra si chiama Ranger. E poi non hai mai fatto attività agonistica? No. No, quello no. Facevo ginnastica a scuola, facevo anche la serale, la ginnastica, però proprio roba agonistica. Sai che c'avevi la palestra, tu non eri diversa a tuo cuore, non c'era la palestra, la matta, così si chiamava. Sì, a Secco Cuore c'era anche la pallacanestro, c'era la K che erano bravi. Io lì a Sacro Cuore ho fatto tante cose, sono stato lupetto, scout, esploratore, chierichetto, insomma sono stato molto nella chiesa. Tu conosci anche a mio cugino Turro? Ma chi? Tullio, Franco, tuo cugino? Tuo cugino poesista è Tullio, è morto l'altro giorno il fratello Nanni, te lo ricordi? Franco? No, è morto Nanni. Ah, Cappa, no, non me lo ricordo quello, io mi ricordo a Franco, a Tullio. Tullio, cazzo, abitava vicino a casa, dai. Sì, sì, ci conosciamo molto bene. Mi pare che era in polizia, Tullio, che era in polizia. No, la moglie, mia cugina, lì, lavora come civile. Lui lavora, era sempre persona l'altro giorno, un mesetto fa, all'ufficio tecnico lavorava. E il fratello, così non l'hai conosciuto a Nanni, era direttore di alle poste. Può darsi che lo conoscevo e non sapevo che era lui. Comunque a Tullio pensavo che fosse polizia perché frequentava lì dove la polizia, dove frequentavo io quando ero sposato, che perché mia moglie era figlia di ispettore di polizia, quindi frequentavamo lì, capito? E Tullio frequentava lì lo stesso. Sì, sì, perché la moglie adesso mi fa impressione, il primo aprile, esattamente il 1 aprile, dopo tanti anni di lavoro, c'è una vita di lì, che mi arriva 40 anni lì in questura. Sì, sì, sì. Comunque lo conosco molto bene, che dire, se ci conosce, ci conosciamo da bambino. No, non perché il Tullio, ma è una persona troppo in gamma. Se ti chiedi un favore si tronca il collo, è una persona di una generosità, di una. E lui si occupa del sociale, lui fa parte di quelli di Don Murito, quelli del come si chiama? Mondo X, è uno dei proprio dei primi di quelli più attivi, dai, lui ha voglia. Ma questo non lo sapevo, comunque Tullio è stata sempre una persona che andava in chiesa. Sono i cattolici che fa questa roba qua, capito? Frequentavamo molto la chiesa, anche lui era chierichetto. No, no, una grande persona, non perché sia mio cugino, ti posso garantire, non ne ho sentito gente che ne parli male di lui, ma veramente una persona che ti toglie il cappello. Ok, Natalia te vai. Ehi, cappa. Uia, cosa vuoi che ti dica? Io non ne ho mai fatto calcio, solo a livello così come Gianni, però andavo a vedere le partite dove giocava mio fratello. Ma tu dici tu a mano di Galateba? Cosa c'entra? Io ho fatto judo, ho fatto karate e full contact pure. Il full contact lo facevamo lì, di nascosto nella palestra di pugilato, dove ha detto Roberto. Infatti poco si incazzava a me, che li facevamo in tutti i sacchi, perché noi li prendevamo a calci. Adesso non sono fatti per prendere, per quelli erano in pelle, non sono come quelli di adesso che sono materiali sintetici molto più resistenti. Prima ogni tanto ne vedevi qualcuno scucito, me lo ricordo. Io ero un grande amico della famiglia Maciucco di Signora Rezza e poi il figlio siamo nati insieme con tutta la famiglia, la mamma eccetera, con Marcello, Michele e Marzia, e tutti amici, e lui era il maestro del pugilato lì. Io lo so. Uiaia. Era un medico il nostro allenatore, bravissimo. Ma di che cosa? Di calcio o di cosa? No, full contact, un misto di arti diverse, no? Diciamo così. Sì, sì, non lo ricordo, c'è stato il boom con tutti i film, quando era uscito il film, tutti, quando era il periodo di Bruce Lee, tutti a fare palestra, karate, kung fu, cioè, poi è uscito il full contact, il film, e adesso c'è Muay Thai, Taekwondo, hanno fatto una varietà, tutti i ragazzini, li vedi, sono fissati adesso, mio cugino, mio cognato è maestro di Muay Thai, e fanno i campionati, la sua cosa è campionessa italiana, una ragazza, tipo una ti prende a schiaffi e ti siede in terra questa ragazza, è tutto nervi, ma c'ha una rapidità, pugni e calci picchiando, ti mette le mani in testa. Io già lo so, io ero da piccolo, non è per i film, ero da piccolo che facevo quelle cose lì, da bambino piccolo proprio. No, a me sinceramente, a me mi ci ha portato qualche volta Marcello dal padre, ci mettevamo il caschetto per fare pugilato, e la non è per me quello sport, non mi piace. Mi piacciono altri tipi di sport, da cui uno deve avere anche la passione quando fa gli sport, sinceramente, ma neanche andare a vederli non mi è mai interessato. Preferivo altri sport di squadra, tipo pallavolo, pallacanestro, quelli sport lì, sì. Però i fuori colpi dove c'è violenza, ogni tanto li guardo in televisione, qualcosa, ma non mi piace. Ma Gianni? Il mio padre era partito di pugilato, di ciclismo e di calcio. ci alzavamo alle 4 di mattina per vedere gli incontri più girato, perché allora non si poteva registrare, quindi quando ci alzava presto la mattina per andare per guardare l'incontro, guardate in mano. A proposito, il fratello di Tullio è arbitro internazionale pugilato, ha fatto campionati mondiali, olimpiadi, era molto molto considerato a livello mondiale. Ma quale grande? Il grande, è il nipote, che sarebbe mio nipote, figlio di Tullio, anche lui è arbitro di pugilato. Oh, te vabbè, lascio un po' gli approcci di vista, Robè, perché io in quella zona non ci sono più, poi non lo so Tullio dove abita adesso, ma prima abitava via, che via è quella lì, vabbè, comunque con lo spiazzo che c'è, quel portone che rimane nello spiazzo, salendo per andare da signor Vascoli. Ma lui adesso da tantissimi anni, da quando si è sposato, c'ha figli grandi, hanno 35 anni, Elisabetta più o meno 33, con i puttini e nonno pure, abitano alle punti. Vabbè, ma quando era ragazzo abitavano tutti vicino a casa. Li conosco da bambini proprio, ti posso dire, da ragazzini proprio. Sì, abitava nel portone di Don Iuguri. Allora tu hai conosciuto anche la famiglia di mio cognato, quello delle moto, Murito, li hai conosciuti? Murito, è Cagulli. E quello è mio cognato. Sì, li ho conosciuti. Praticamente io avevo comprato il sì da loro, avevo comprato il sì di nascosto di mio padre, avevo fatto le cambiali, sono tornato con la moto a casa, mio padre, questa moto mi chiede, te la mia, e come l'hai comprata? E ho fatto le cambiali, aspetta, quanto hai pagato? Dimmi quanto hai pagato, mi ha dato i soldi, mi ha detto, dimmi di tu le cambiali, non si sa mai che c'è qualcuno che va da male e passi casini, pagalo subito e poi i soldi ritornano. C'erano un negozio in via Pascoli loro. Cosa? Avevano un negozio in via Pascoli, mi sembra. No, io non vi annuncio Cirvi, ce l'avevo, no, vi annuncio Cirvi. Dove c'era? No, dove era Gabriele D'Annunzio, c'erano l'officina. Sì, via Gabriele D'Annunzio, non vi annuncio Cirvi, sì, l'officina. Il negozio, no, io l'ho comprato in officina, la vendo dall'officina direttamente. Io l'ho ordinata, loro me l'hanno fatta arrivare in officina e me l'hanno portata quando c'è, sono andato e me lo ritirato. Sono stati tanti anni officina autorizzata a Piaggio, poi facevano tutte le moto, no. Era proprio mia, quella sera che sono andato con uno dei Murito, con un signor Vittorio, che è il padre di mio cognato, e poi io facevo a fare un giro a Italia, siamo andati un pari. Prima erano i due fratelli Murito, era uno con robusto e l'altro madrolino. Erano due, poi mi sa che si sono divisi perché l'altro ha trovato l'altro lavoro, non lo so. E poi conoscevo la sorella, cantava in chiesa, c'era una voce melodiosa, era tipo lirica, era molto robusta. Aveva questa voce che era melodiosa, no? Quando cantava si sentiva il silenzio, tutta la chiesa cantava solo lì. Carissima, grandissima persona, signorina Tetta, una persona speciale, affettuosa, di quelle proprio, una santa, dai, non c'è niente da dire di peggio, perché era una persona bellissima come carattere, come persona. Io me lo ricordo tante cose, quando poi stavo a Platano, noi eravamo ragazzini quando abbiamo conosciuto, una bellissima donna, poi bellissima, parliamo come persona, è stata apprezzata dalla chiesa quando c'era il funerale, c'era il mondo, c'era Don, non ricordo chi era, quel prete che c'era allora, famoso, di, come si chiama, del Sacro Cuore. Don Tanca, Dottor Piga, Don Daca, non lo so. Dottor Piga era, Don Tanca non c'era quando era già andato via al Sacro Cuore. Cosa ti stavo dicendo? Lei si era detta, si metteva a vendere i giornali, la famiglia cristiana all'uscita della messa, c'era un tavolino, lui vendeva sia lei che Mario Ciadetturi, tutti e due. Figurati, li ho conosciuti da bambini, io ho frequentato quella chiesa, quindi è come se fosse casa mia quella chiesa lì, conosco tutti. No, io non ci frequentavo, però quando sono andato al funerale le hanno fatto roba di discorso, è stata una quando vedi tanta gente, vuol dire che quella persona ha fatto delle cose importanti, il prete, il monsignor che c'era di lì dentro, ha fatto un una predica, proprio meritava, perché io la conoscevo da ragazzino. Ricordo una volta che ero pieno di spine e di ricce, me ne avrà tolto un minimo un centinaio, e sono caduto tuffando, risalendo da Malaimi alle Rocette Bianche, mi sono grappugiato, ci ho messo i piedi sopra i ricci, e poi nella parete ero, ci avrà avuto non meno di 150 spine di ricci, me ne ha tolte a una parte, qualcuno ha detto lasci stare, stavo soffrendo troppo, quelli dei piedi avevo un 4-5 e gli ho detto no, mi fanno troppo male, non li tocchi. E me la ricordo benissimo, bei ricordi. Vai Natalia. E una volta a Castelsardo mi è successo a me dei ricci, ci ho messo il piede, ui. A voi il piede, a me la testa, stavo facendo pesca subacquea, ero rosetta degli scuri dove c'era la gente, mi hanno tirato la ricce in testa, cazzo, ma mi ha riempito di spine in testa, la gente tutti i rigurori, come proprio la testa fuori la giubilata in piedi, all'Isola Rossa. No, a me a Balai, dopo che tuffi, per arrampicarti ci sono delle fessure nella parete, ci ho infilato i piedi dentro e era tutto pieno di ricci, poi c'erano nell'altra parete, salendo ti viene sentivo appoggiata e mi sono appoggiato tutto il petto pieno, la pancia tutto pieno di ricci, era una cosa, guarda, non me ne ha tolto meno di 100 dal petto, diciamo già ne sono usciti bene, ma quelli dei piedi alla fine qualcuno gli ha detto no, mi fa con lo spillo, mi collago, togliendo scavava, mamma mia, ogni durore, alla fine gli ultimi ho detto lasci stare, non ce la faccio più, si stava scavando soprattutto nel pollicione, nel dito dell'alluce del piede, mamma mia, ogni durore. Infatti sto sempre attento quando vado negli scugli, sempre i calamari oppure delle scarpe adatte da scuglio, se no guai. Io poi ce l'ho talmente sensibile, basta una pietruzza, me ne entra e mi va di male. Vai Natalia. La mia fidanzata di allora me li aveva tutti dal piede, mamma mia. Aspetta, andiamo a ver caso se c'è Riccardino. Ci sei Riccardino? Gli mando un messaggio, magari, dai, così magari si riavvicina. Claudio, non si è sentito? Vabbè, la bassa per la madre è troppo forte. Come troppo forte? Cioè, mi avete detto che era più bassa dell'altra. Va bene, dai. Va bene la radio. Non è che sei forte forte, va bene. E questo non è amplificato il microfono, forse ho oscillato un pochettino, adesso io sono a 50 cm dal microfono, è un MC50, non è amplificato questo qua. Sì, lo so, infatti stai andando bene di radio. Qua lo ricevo fortissimo. E vabbè, forse già mi sono avvicinato troppo, aspetta che mi allontano un po' di più, così penso che vada meglio. Così è perfetto. Rimango così, dai. Ok, vediamo un po', facciamo una chiamata generale qua sul canale 10, se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprende Natalino. Avanti su 10 che vuole entrare. Sulla, vai Natale. No, stavi andando bene anche poco fa, io ti ricevevo bene, ti sto ricevendo con un apparecchio omologato col Superstar e ti ricevevo bene, magari è Gianni che ha il volume troppo alto forse. No, poi basta abbassare, Natalia, il secondo passaggio quando si è allontanato era perfetto, se no c'è guarda, stava al limite per distorcere, dai, vabbè, comunque ognuno che si apparecchia ascolta come lo riceve. Andava e comunque signor Arteta Mulitu era anche insegnante di catechismo come era mio padre, tra l'altro. Sì, lo so, lei poi con i bambini c'aveva un legame, faceva tutto lì in quella chiesa, era una persona squisita e ben voluta da tutti, non c'è nessuno che potrebbe parlarne male di quella signora, è una bravissima donna e molto credente, praticante, veramente in gamba. Ok, ma sento voci cantando già, tu sei a casa tua, c'è qualcuno che canta? Sta cantando ella. Ah, infatti ho detto, ma ho la televisione, ho la radio, infatti ho detto, ok, la voce era chiara, dai, si sentiva bene. Canta, sta cantando, e noi abbiamo la passione del canto tutti e due. No, a me nulla, a me piace ascoltare, ma se canto io ne scende l'aria, no, assolutamente. C'era tutta l'attrezzatura per il karaoke, quando eravamo giù a Platamona portavo tutto io, quelli professionali, quelli che facevano le serate. Non, io facevo per gli altri, magari qualche coro tutti insieme per scherzare, ma non ho voce canterina, a parte che non mi piace, non è una passione che piace a me. Vabbè, io praticamente da quando ho trovato questo d'estate dove si canta, ci sono fanno i contest eccetera eccetera, fanno i duiti, insomma un po' tutto, e ti diverti, passi le ore così, capito? Adesso che non sto bene, non posso uscire, cosa vuoi? No, vabbè, l'importante è tenere il tempo impegnato, se rimani lampado in casa attaccato alla televisione alla fine diventi uno zombie, dai, almeno quando uno ha delle diversivi, delle cose da fare, è sempre una cosa positiva, dai. Ma io ne ho troppe di cose da fare, però sicuramente il canto, le mie cose, i limiti sono il canto e la cucina, proprio non mi appassiona né uno né l'altro, cucina zero assoluto e canto assolutamente stonato. Ma lo sai che la voglia di cantare poi la educhi la voce, non è che uno nasce stonato, vabbè ci sono quelli portati, però tu la voglia di cantare la educhi la voce. Sì, ma ti deve piacere già, è una cosa che deve essere, che ti deve interessare, io sono di quelle cose che proprio mi piacerebbe suonare uno strumento, è stata sempre una mia cosa, però non ho la pazienza, mi manca la pazienza, per cui non ho mai avuto la cosa, ho provato, ho la chitarra, la tastiera a casa, ma non ci riesco perché devi applicarti, e quando una cosa a me non mi esce subito, e per dire, faccio altre cose, do il massimo di me, dove escono anche cose carine, interessanti, eccetera, però sulla musica mi piace ascoltarla, la valuto, la so ascoltare, apprezzare, rendere, capisco anche le qualità, però non mi dire né a suonare e né a cantare. Comunque la musica ti piace, dai, ti piace ascoltarla, e quando ti piace la musica poi viene da solo il coso di cantare, la voglia di cantare, dovrebbe essere una cosa quasi collegata. Avanti, manco a me piace cantare. Poi non c'ho più la voce che avevo prima, ma mi sto distruggendo, diciamo così. Non ho più nubi, nulla. Cos'è, di una voce bianca al coro degli angeli, Natalia? No, c'avevo una bella voce prima. Ma io mi ricordo, guarda, non perché ci sei tu, quando io ho iniziato qua all'inizio, quindi parliamo dal 2004 io ho preso il baracchino, poi dal 2005 molto assiduamente, ricordo la tua, quando avevi apparati un pochettino più performanti, la tua modulazione era molto bella, pulita, tra le prime 5 che mettevo come piacevolezza, non era di quelle voci per dire Mario Manser, non per criticare, c'aveva una voce grossa, l'altro c'aveva un altro, una voce abbastanza buona, almeno parliamo qua in 27, come mi piaceva tantissimo la voce di Tino, molto squillante, la voce di Franco, cioè belle modulazioni, cioè da speaker, oltre che da baracchino, da speaker radiofonico, una bella voce, c'era poi Salvatore Maestrale, lo stesso, c'era una bellissima voce. E a me molte volte mi scambiavano per Claudio, figurati un po', ma adesso chissà cosa mi è successo alla voce, non lo so. Il 44 ci va bene. E mi scambiavano per Claudio, uscivo uguale a lui. Ma volevo dire che ero io, perché mi scambiavano per lui. Ma Natalia, eri probabilmente meno fumatore di adesso, qualche anno di meno, stiamo parlando 2004, stiamo parlando di quanti anni sono? Quanto siamo? 2022, 18 anni, no, adesso 2007, sì, 18 anni, più o meno 18 anni. Vedi bene. Datemi un attimino di bianco, riprendo subito. Natalia, tu con l'età si cambia la voce anche, non è? Anche l'età comincia a essere più flebile la voce. Sì, infatti, c'avevo una voce che spaccava i vetri. Cavolo, se mi scambiavano per Claudio. Tu infatti glielo dici, lui confermerà. Io dovevo dire sempre che ero io e anche lui. O mi scambiavano a lui per me, o a me per lui. Sì, vabbè, io va bene anche adesso, dai. Sì. Come va? Adesso sono in prigione, prima me ne andavo sempre al campo a sparare, adesso non ci sono più andato. Se una volta andavo a accompagnare a Sandro, al tiro al piattello, a Sennori, E c'erano tutti gli amici miei lì e mi dicevano, andata via, io ti là, mi si vuria in buccia a cazzo, mi vuria in vai, per la rubiatella, non ho bisogno mai di andare. Mi pregavano in ginocchio. Sono rientrato? E senti il tuo propagazzone sotto. Già c'è, già c'è. Gianni non ha risposto. Oh signore. In questi giorni sta arrivando un bel di mondezzina, nel senso non è una propagazione come certi periodi, per dire a zone, adesso arriva di tutto, cioè per dire mezza nazione prendi, prima per dire, c'era una propagazione, prendevi la Spagna e bu, adesso per dire oltre la Spagna in contemporanea ti prendi tutte le isole e tutto qua. Regale un messaggio, riprendi la tariffa. Mica. Gianni, che fine hai fatto? Ci sono, sto mandando un messaggio, scusa. Ah, capo. Attenzione Riccardino, se sei all'ascolto, cambio. Scusatemi un attimo, credetoso, Natalino e Gianni, sono al telefono, un attimino, riprendo dopo. Ehi, eccomi qua. Dai, è sbagliato, l'ho mandato il coso, la registrazione delle canzoni a un amico, l'ho sbagliato. Mi ha scritto, ma che cos'hai, dove sei? Chiava. Andava, vabbè, non è cosa grossa. Ma oggi mi sono dimenticato di mettere il portatile a scaricare gli aggiornamenti, perché anche a quello gli ho messo il sistema operativo nuovo e l'ho lasciato spento. Beh, come va? Cosa? Portate, ti ha preso. Ehi, me l'ha venduto un amico, bellino. Va bene, io ho messo il sistema operativo nuovo, aspetta ma. L'ha pagato di meno. Sono rientrato, chi è rimasto? Io e Gianni. Io sono andato a aprire la porta che è salita la 50 qua e voleva roba e se n'è tornato a andare. Lei già gira già, io è che sono in prigione. Ma in macchina esce pure? No, non ne ha patente lì. Ma tu sei bloccato in casa, non stai uscendo perché la salita? Bloccato a casa sono, perché non riesco a camminare e quando sforzo la gamba mi viene un dolore allucinante. E me lo ti fai controllare. E operare mi devo. Non mi arriva sangue alla gamba destra e come la sforzo mi viene un dolore allucinante che non puoi stare. La fisioterapia non serve a niente, oppure dei farmaci vasodilatatori? No, bisogna disostruire l'arteria. Va bene, Natalia, non c'è a scherzare su quel tipo di cose.